di Julia Peng, così anch'io posso shut up-are, che significa stai zitto. Mentre venivo qua, appunto, facendomi 16 ore di volo Parigi-Shanghai, ho avuto la fortuna di potermi guardare un film bellissimo che è del 2018 e si chiama Hibiki. Hibiki è una ragazza giapponese di 15 anni che scrive una novella, un libro, un romanzo fantastico, ma lo spedisce per una competizione su carta, mentre invece la competizione specifica che il romanzo deve essere spedito digitalmente. Lo stanno per cestinare quando non si sa bene perché una della casa editrice decide di dargli un'occhiata e scopre appunto che è un romanzo fantastico. Dopo poi non vi racconto tutto quello che succede nel film, ma la protagonista è questa appunto quindicenne che no, forse adesso ne ha un po' di più, però questa si chiama Yurina Hirate ed è veramente fantastica in questo film dove fa appunto questa la parte di questa giovanissima scrittrice abbastanza disadattata, con le idee però molto chiare. È veramente un bel film, ve lo consiglio. Hibiki si chiama, non so se l'hanno tradotto in italiano, ma penso di sì. La protagonista, che si chiama Yurina Hirate appunto, è anche una cantante e canta in questo gruppo che si chiama, un gruppo tipo di 30 ragazze, che si chiama Keiakizaka 46, per cui mi sono andato a sentire come suonano. Ed eccole qua, le Keiakizaka 46. Thank you. E invece stamattina con il jet lag mi sono svegliato alle 6 di mattina, orario locale, e ho visto questo documentario americano che parla del Road and Belt Project, ovvero il progetto Cinghia e Strada, Strada e Cinghia, che è questo progetto del governo cinese di ampliare le infrastrutture non solo a livello nazionale. Ricordiamoci che la Cina è uno dei paesi più grandi, più estesi al mondo, ma anche a livello internazionale, per cui stanno convincendo vari paesi del mondo, tra cui anche l'Italia, hanno fatto un trattato l'anno scorso, se non sbaglio, per la costruzione di infrastrutture veloci che sono sia su gomma, cioè sia su rotaia, che su gomma, che via mare, per migliorare la comunicazione delle merci, soprattutto perché è un progetto soprattutto economico, ed effettivamente qui nel centro dell'economia cinese, sono proprio sulla riva del fiume a Shanghai, e qui davanti a me ho i grattacieli dello Stock Exchange, della borsa cinese, e effettivamente ti rendi conto di come le quisquiglie italiane siano veramente poca cosa rispetto a come sta andando il mondo. Ma a livello creativo soprattutto ci si accorge che è scomparso completamente l'idea di esotismo, no? Il fascino dell'esotico. Una volta si veniva in Cina, una volta, e parlo anche solo di 10 anni fa, 15 anni fa, ma 20 anni fa, ma venivi in Cina ed effettivamente entravi in un mondo, in un mondo con una storia particolare e anche un esotismo appunto particolare. Questa cosa sta completamente, stavo per dire grazie alla globalizzazione, ma per colpa in realtà della globalizzazione, sta veramente cambiando davvero. E forse ora l'unico modo per avere un'esperienza esotica è quella di andare in zone povere. E dunque probabilmente in realtà alcune zone povere dell'Italia sono molto più esotiche che non venire dall'altra parte del mondo, chi lo sa. E io per ora non sono stato in tantissimi posti, sono stato in Malesia, che è sicuramente più esotica, a parte che appunto erano forse 20 anni fa, sicuramente più esotica di Shanghai. Poi sono venuto a Shanghai anche a Seoul. Devo dire che ormai la standardizzazione della cultura è diventata qualcosa di un po' particolare, per cui forse effettivamente il Giappone, in cui non sono ancora stato, ed effettivamente anche ripensando a questo film che ho visto, Hibiki, probabilmente ti lascia ancora quest'aura un po' esotica, comunque di diversità culturale, che qui effettivamente si è persa, qui in Cina, anche perché la Cina è venuta a noi. Adesso io in particolare ho a che fare con studenti cinesi tutti i giorni, ma comunque li vediamo dappertutto, e soprattutto i loro prodotti sono attorno a noi costantemente, ed effettivamente stanno cambiando la nostra vita, in meglio o in peggio, chi lo sa. Io non sono un grande promotore della globalizzazione, anzi penso che ci siano molti fattori negativi legati alla globalizzazione, anche se guardando effettivamente questo programma che ho visto stamattina sulla CGCN ti lascia abbastanza speranzoso, soprattutto per quel che riguarda la costruzione di infrastrutture in Africa. Cioè loro, la Cina sta investendo tantissimo in Africa, proprio per il fatto che essendo un paese in via di sviluppo, cioè essendo la Cina un paese che ha sviluppato velocissimamente e nel giro di un ventennio appunto ha tolto 40 o 400, no, 4, credo 400 milioni di persone che erano sotto il livello della povertà, sono uscite dalla povertà, sicuramente ci saranno dei riscontri positivi anche per quel che riguarda per quel che riguarda il continente africano. Dopodiché, appunto, io mi occupo d'arte, per cui non sono sicuramente la persona adatta a parlare di queste cose, anche perché di economia ci capisco veramente molto poco, ma guardando questo documentario devo dire che alcuni aspetti mi sono sembrati degni di un certo ottimismo, soprattutto anche riguardo quando parlava del fattore rischio, ovvero del costruire infrastrutture in paesi che sono o sull'orlo di una guerra o comunque non sono stabili politicamente. E c'era questo consulente cinese, consulente governativo, che diceva: per noi comunque, noi ci siamo accorti che investire in un paese che può essere instabile non è detto che sia una cattiva idea. Certo, c'è la possibilità di costruire cose che poi vengono distrutte dalla prossima guerra, ma in realtà c'è anche la concreta possibilità che, aumentando il livello di benessere della popolazione, diminuisca la volontà di fare guerra. Ed effettivamente quel tipo di discorso l'avevo sentito anche riguardo all'Afghanistan, che purtroppo è in guerra più o meno dal 1980, se non vado errato. Detto questo, non si capisce perché Cox Spaziale debba mai parlare di economia globale o di politica mondiale, per cui ascoltiamoci un altro pezzo mentre questo ci dice questa cosa qua. Sto imparando il cinese intanto. Xie xie. 从风里走来就不想停下脚步如果欢笑可以骄傲我们要踏向两向风里走去就不能停下脚步如果年轻凝成泪水很快就会吹干青春正是长长的风来自无影 去向武宗握住生命如同握住一只球对着太阳掷去织成一道不经心的彩虹从风里走来 想停下脚步如果欢笑可以骄傲我们要踏向两向风里走去就不能停下脚步如果年轻凝成泪水很快就会吹干青春正是长长的风来自无影去向无踪 握住生命如同握住一只球对着太阳掷去追成一道不经心的彩虹 arte contemporanea. Mi trovo al Power Long Museum di Shanghai ad una mostra che non ho capito bene perché, ma ha due titoli. Una, il titolo del manifesto è One If by Land, che non ha molto senso in inglese, obiettivamente. Significa uno se via terra. Poi però all'interno il comunicato stampa, il piccolo comunicato stampa che troviamo, è una mostra collettiva con artisti anche di alto livello, tipo Carsten Holler, Feng Cheng, Gao Ling, Ivan Navarro, Nancy Lupo, Paola Pivi, eccetera. E dentro in realtà parla c'è questo piccolo comunicato chiamato The Missing Deer, ovvero il cerbiatto mancante. E allude al sogno del cerbiatto di Liesi Qingmu di Zhu, ovvero la storia di un cittadino di Zheng che un giorno catturò un cerbiatto ma si dimenticò dove era nascosto, per cui pensò che quello che aveva fatto fosse un sogno. Da quel momento la gente usa questa storia per illustrare tutto quello che è una fantasia. In questa mostra ci sono 15 artisti di nazionalità differente, background, che in un certo senso vogliono portarti in un'atmosfera sognante. E io devo dire che in un certo senso è funzionato, anche se la mostra devo dire che non è che mi sia piaciuta tantissimo, soprattutto per il modo in cui è installata, e anche questo museo ha una certa valenza commerciale di cui ci sarebbe da discutere, se non fosse che appunto in un programma radiofonico in cui dovremmo parlare di arte e teatro locali, io vado a Shanghai e vi racconto via radio una mostra di Shanghai. Direi che funziona abbastanza poco, però è interessante, per cui così vi faccio sentire un po' del sonoro e anche poi un po' di discorsi che abbiamo fatto con questi piccoli bambini artisti e con alcuni colleghi artisti invece, Costas Bassanos e altri, con cui appunto abbiamo collaborato per questo workshop con i piccoli bambini artisti di Shanghai, che mi hanno incontrato all'interno di un lavoro di Ivan Navarro, con questa casetta in cui è una sorta di casetta tutta dipinta di nero, in cui tu entri e ci sono degli intagli che in realtà sembrano delle finestre, perché all'interno di questi piccoli intagli ci sono un gioco di specchi e dei neon che fanno sì che sembra che siano dei buchi lunghissimi. Ma la cosa che funziona bene in questa atmosfera è la colonna sonora di questa ragazza che suona qualcosa o sbatte semplicemente una sorta di tamburo, ma e canta una canzone dei Beatles. Ha detto del lavoro con la luce. Quello Crapalone del Picardista studiava scienza di natura, scienza naturale. Vuol dire, ha messo due questo tipo di palloni che si può giocare come un gioco sull'acqua, e che si può, le persone vanno dentro questo pallone e fa girare sull'acqua. Ha messo due insieme e ha detto che dà un più senso di senso scientifico, come un studio scientifico, e poi ha aggiunto tanti luci per l'estetica. E un'altra ha detto che c'è un funghi, c'è metà di cattiva, metà tossica, gli altri due sono, si può mangiare, buoni, sì. Vuol dire, si può rappresentare la gente del mondo, che ci sono metà cattiva, ci sono le persone buone, okay. Oppure, e quelle buone si possono mangiare, e una persona però nella testa siamo metà buoni, metà cattivi, sì. Cioè, This is, this likes, yeah. It is. 必须得放开，是吧？嗯，只有我是讲的是你公司啊，对，我们是讲的是我们的朋友的亲戚，那都。Ha detto che questa artista ha fatto questo per rappresentare la luce e buio della sua infanzia. Coxo spaziale. Malgrado le apparenze, i bambini cinesi sono molto quieti, perché il rumore di fondo che state sentendo è quello di 30 tavoli con 30 bambini ognuno. Ciao! Di cui alcuni mi salutano. E, per cui il rumore che fanno in realtà è abbastanza minimo, considerato che se fossero bambini italiani probabilmente qui dentro non ci si potrebbe stare dalle urla che sentiamo, ma magari sono solo supposizioni. E comunque sono bambini che vanno dai 6 anni ai 12 più o meno, per cui età elementari, sembrano tutti molto piccoli in realtà, alcuni sono grandi ma sono piccoli, e in questo momento stanno tutti lavorando con delle plastic bags, con delle buste di plastica, stanno facendo una sorta di workshop sul riciclo, perché da poco tempo, da un paio di settimane a Shanghai hanno istituito il riciclo differenziato dei rifiuti. Hello. Show how I truly, we need to die. I may change the way. 放过冷漠，我们的爱微笑着闪烁，颠簸却如此活泼。 Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Vaga scaletta. Ciao, mi chiamo. Wang Qingyu. Ciao, mi chiamo Wang Zihan. Ciao, mi chiamo Jiao Yang. Ciao, mi chiamo Wang Ziyu. Benvenuti a Coxo Spaziale. I due minuti di Londra hanno una durata percepita variabile. Col caldo vado un po' in agitazione, oscuro tutta la mia abitazione. Contatto il mio dentista ma va in ferie, respirando sulla ghiaia, allontano la vecchiaia e alla pesca della festa sono serie. Caldo divento antagonista, bevo l'acqua calda del dentista, sogno una crociera mai noiosa, scelgo la mezza pensione, mi mangio colazione, i fiocchi d'avena varicosa. L'assorbenza è sempre quella, il vento solidale ma in pietà, cavalcando in autostrada la caviglia si degrada, adesso lo spessore è la metà. Col caldo vorrei dell'aria in fretta, trascendo e divento bicicletta, sellino di me stesso ma vescico, sudorando sul pedale, intralcio la statale, avrei una vaga idea ma non lo dico. Già finito? Ah, ben c'è di sito in io pinga, 你个是大又甜呐，哪里有个姑娘叫玛利亚？那两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，你不要嫁给别人，也不要嫁给他。爱着你的嫁妆，唱着你的歌，嫁给你的老公啊！<笑>先生是先生后天到是吧？ 你要是嫁人，你不要嫁给别人，也不要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。Bravo。 Così finisce questa strana puntata estiva di Coxo Spaziale, registrata a Shanghai, montata sull'aereo e spedita da Bologna poco prima della diretta, per cui io starò dormendo in jet lag o qualcosa del genere. vi saluto e vi do appuntamento naturalmente a venerdì prossimo. Anzi, Letizia Rotolo, se senti questa puntata, sappi che fra un po' possiamo recuperare la puntata persa. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, ci sentiamo sempre sui microfoni di Radio Città Fujiko al venerdì dalle 20 alle 21. Ciao! Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. 属于女人的潦倒和无可救药。